in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Container, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Con una crescita del 6% rispetto al 2015, l'anno appena concluso ha segnato una ripresa del traffico merci ferroviario in Italia. A dare forte impulso al comparto sono state anche le imprese private del settore, che hanno fatto registrare un aumento del 25% dei propri trasporti. Dati incoraggianti, resi noti dall'associazione Fercargo, che riunisce 16 operatori privati e che rappresenta circa il 45% del mercato nazionale. A un anno dall'avvio della cosiddetta cura del ferro, voluta dal Ministero dei Trasporti, e in attesa che il ferro bonus diventi operativo, si registrano così i primi risultati positivi, anche se restano molti gli interventi da compiere per rendere il settore cargo ferroviario italiano realmente competitivo. Primi fra tutti interventi infrastrutturali, per adeguare la rete ferroviaria italiana agli standard europei. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E c'è un mondo all'interno di questo segmento dei trasporti che sta crescendo un po' più degli altri. Stiamo parlando delle ferrovie. Come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, c'è un'importante ripresa del traffico merci ferroviario in Italia, il 6% lo scorso anno rispetto al 2015, merito anche degli operatori privati. E con gli operatori privati parliamo oggi, perché parliamo con Giancarlo Laguzzi, che è il presidente di Fercargo, che innanzitutto saluto. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buongiorno, saluto tutti voi e grazie dell'invito. Allora, che cosa è successo lo scorso anno? Perché c'è stato questo segno più, tra l'altro dopo un lunghissimo periodo di segno meno? Allora, il merito va tutto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha individuato due azioni. Una a regime strutturale, finanziando gli interventi che consentano di fare treni lunghi da 750 metri invece che da 500-550 come si fanno oggi, da 1000 a 2000 tonnellate invece che da 1600, sostanzialmente portando 25% di merci in più in treno. Questo come traguardo di tempi di realizzazione sono investimenti che sono partiti 2019-2021 come scheduling, ma nel frattempo ha attivato nel 2015 degli incentivi per il sud e nel 2016 e 2017 degli incentivi intera rete, intesi in parte come ferro bonus e in parte come sconto pedaggio. Ecco, questo cosa ha cambiato praticamente nel rapporto con la clientela? C'è stata una maggiore richiesta di trasporto ferroviario? Beh, le imprese nostre hanno potuto intanto traguardare una maggiore competitività dovuti agli investimenti che gli permettono di fare prezzi più bassi per merce trasportate a regime. E nel frattempo, grazie agli incentivi che ne hanno anticipato una parte di questi poter fare subito qualche accordo commercialmente più interessante. Il tutto con i trasportatori, perché prevalentemente sono relazioni tutto camion che sono diventate relazioni intermodali, quindi in parte fatte col treno, in parte fatte sempre con l'autotrasporto. Intermodale, vogliamo spiegarlo ai radioascoltatori che non sono esperti del settore, significa portare una merce in parte con una modalità, in questo caso la ferrovia, in parte con un'altra, appunto la gomma. Ecco, lei ha parlato del sud, tra l'altro c'è un dato eccezionale che riguarda il sud, eccezionale rispetto a quelli a cui siamo abituati, cioè una crescita a due cifre rispetto al trasporto merci su ferrovia. Sì, il nostro numero è sostanzialmente un numero del 25% di crescita. Nel 2015 avevamo fatto un numero a una cifra sola, comunque erano sempre 2000 coppie di treni in più all'anno al sud. Quest'anno sia al sud che intera rete l'incremento è veramente consistente, proprio dovuto alla fiducia che le imprese hanno di un intervento che è importante. Gli incentivi sono sempre importanti, ma è fondamentale che siano traguardati un sistema regime, quindi è un incentivo non una tantum ma un'anticipazione dell'effetto di un investimento, e questo consente alle imprese di investire serenamente, perché l'incentivo non dipende poi dal governo di turno, ma diciamo che questo governo ha trovato la soluzione a regime anticipandone gli effetti. Però diremmo che è strutturale a questo punto. Certo, tra l'altro su questo settore interverrà tra poco anche il cosiddetto ferrobonus, che è un esatto. ulteriore incentivo che verrà dato alle imprese che trasferiranno in maniera modale le merci da appunto la gomma alla ferrovia. Esatto, e questo dovrebbe consentire un ulteriore avvicinamento rispetto ai vantaggi a regime, e che questo dovrebbe comportare sul 2017 un'ulteriore accelerazione, diciamo, che va verso lo sviluppo. Quindi noi contiamo di riconfermare in quest'anno il trend di crescita dello scorso anno. Tutto questo è ancora più eccezionale se pensiamo che il trasporto merci su ferrovia in Italia ha una delle velocità commerciali tra le più basse d'Europa. Com'è possibile intervenire su questo fronte? Ma guardi, il trasporto delle merci è stato nel mondo ferroviario purtroppo la Cenerentola. La Cenerentola sia all'interno del gruppo FS, ma anche all'interno del mondo della politica. Innanzitutto serviva una scelta chiara dal punto di vista politico, che è stata fatta, e da qui nasceranno tutta una serie di belle notizie. Per esempio, una cosa importantissima è che uno degli interventi a regime è quello di mettere a posto, allargare le sagome delle gallerie vecchie per poter consentire di trasportare i trailer sui treni e i container, quelli dell'ultima generazione che si chiamano iCube. Questo non si riesce a fare entro il 2020-2021 sulla lunga galleria dell'Appennino, quello che collega Firenze con Bologna, per evidenti motivi di tempi tecnici. Ebbene, sempre il Ministero, con poi RFI che ha confermato, ci danno la possibilità di usare di notte la linea dell'alta velocità, non per andare forte, ma per poter portare appunto i trailer e i container grandi, essendo la sagoma della linea dell'alta velocità adatta già ovviamente a specifica internazionale. E anche questo è un segnale molto importante, che soltanto 2-3 anni fa non sarebbe stato nemmeno possibile proporlo, è diventato anche questo una realtà. Quindi quando si decide convintamente di andare su una certa direzione, poi la tecnica va dietro, i comportamenti vengono ovviamente uno dietro l'altro, così come la velocità commerciale tendenzialmente sarà uno dei parametri che tenderà a migliorare. Crediamo che si sia imboccato un cammino virtuoso. Comunque si è fatto veramente tanto in tempo molto breve, quindi siamo fiduciosi che questa spinta continui. A proposito di spinta, una grande spinta si attende dal Gottardo, dall'apertura del tunnel del Gottardo e da questa nuova strada di comunicazione diretta e veloce sostanzialmente tra il nord Italia e il centro Europa. Quali saranno gli effetti concreti di questa apertura? Allora, con l'apertura che è avvenuta a dicembre di 2 mesi fa, cioè del 2016, i treni che prima erano spinti da 2 locomotive in coda, oltre che dalla locomotiva titolare per problemi di pendenza, oggi transitano col solo locomotore titolare. Quindi non bisogna che il treno si fermi, non si deve spingere con queste 2 locomotive, ci hanno minori costi, più velocità di transito. Il vantaggio però, soprattutto per le merci, sarà un vantaggio importante nel 2019, quando la Svizzera completerà anche la galleria del Monte Ceneri. Ecco, su questa apertura ci sono stati cori favorevoli ma anche sfavorevoli. C'è qualcuno che teme che questa apertura possa essere uno svantaggio per l'Italia e non un vantaggio, perché apriamo anche ad operatori stranieri che verranno ad operare in Italia, ad esempio da Rotterdam. Assolutamente sì, e come sempre capita quando si fanno linee di relazioni di comunicazione, queste vale sia per quelle virtuali che oltre che per quelle fisiche, ovviamente vale in entrambe le direzioni, quindi si fa prima, ma fa prima tutti, quindi bisogna essere veloci a essere competitivi, altrimenti lo sono altri. Bene, termino qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Giancarlo Laguzzi, presidente di Fercargo. L'appuntamento con Container ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.